Ogni tanto vorrei non avere gli occhi, non avere cuore, non provare amore per nessuno di voi sciocchi. Ma invece guardami mentre mi curo le ferite causate dall'impatto con le vostre vite infinite. Sono le forme dell'amore, dicono, e non smetto di cercarle, anche se a volte sai ma figo, sconfigo duri muri che il mio cuore crea per vivere la pace, non la guerra come Enea. E scusami se ho tolto l'etichetta in fronte, usami, tutti bravi a dire aiutami, poi se inciampi perdi sangue dal dolore, senti crampi, tutti bravi a dire fra, richiamami, ma mi sento bene, vi sto lontana, siete un allergene, ho rimesso il sangue nelle vene, ho messo voi in un sacco nero, ora più non mi dispero, chiudo il laccio, appiccio il fuoco verso benzene. Just tell me why you want to kill me, I was at the gate, but please apologize me, don't burn my body. Just tell me why you want to kill me, promise I will be a person that you dream, don't burn my body. 16 barre come tempo per rubarmi il beat, LP fuori come Arsenio per il din din. Lo capisci zii, come colle faccio ghetto chic, fumo forte come Snap, grafe 5MD. Se mi nomini tre volte, creepy Mary Bloody. Tu che godi per i torti, fatti i buoni esplodi. Troppi bimbi rap con New Era, pochi MC veri. Resta fuori da sto gioco, lascia rap e b-boy fieri. Oggi più di ieri, ci si leva via dal fango. Non c'ho scimmia per le rime vets, c'ho un orango vesto largo. Da quando 50 ha fatto il terzo album e ne sbatto dei tuoi miti, anzi proprio non li calcolo. Troppi parlano, pochi salgono sul palco. Molti persi in ego trip, stanno già affondando. Quelli che rimangono vivi e veri valgono. Il resto è carne fresca e di talent se la spranano. Just tell me why you want to kill me, promise I will be a person that you dream, don't burn my body. Just tell me why you want to kill me, promise I will be a person that you dream, don't burn my body.